La prima volta. A cura di Cristina Carpinelli. Buongiorno gentili ascoltatrici e ascoltatori, benvenuti alla prima volta. Oggi parliamo dell'arte restaurata, del sogno di una donna milanese che negli anni 70 accettò l'incarico di restaurare l'ultima cena di Leonardo, il Cenacolo. Si trattava di un'opera lunga e molto delicata, si trattava dunque di affrontare rischi e di accettare anche molte critiche, ma Pinin Brambilla decise di accettare la sfida. Si racconta che dopo pochi anni già questa pittura era in rovina, ma veniamo adesso su che cosa lui dipingeva, proprio sul muro a secco, direttamente. Io allora bisogna dire una cosa per capire, io qui proprio a Brera per 4 anni ho studiato a fresco, posso parlarvi per delle ore della fresco, era un modo di dipingere che amavo moltissimo, ma che cosa imponeva? Una velocità straordinaria, soprattutto bisognava avere i cartoni, avere in mente ben chiaro tutti i movimenti, quasi imparati a memoria, nelle gestualità, nel coprire, nello stendere, nel disegnare, nel riprendere tutte le colorazioni già pronte una dietro l'altra a numero, e bisognava che ci fosse uno che prestasse la propria attenzione a passartela una, un gioco di prestigio, perché dopo 3 ore tu non puoi più dipingere, ormai anche se metti appena un attacco anche d'acqua si brucia tutto, quindi velocità, avere ben chiara l'idea e eseguire quello che è già preparato. Leonardo invece voleva sperimentare, voleva andare oltre, voleva sprofondarsi dentro la sua pittura e cercare di buttarla per aria, coprirla, ritrovarla e via dicendo, e quindi la fresco non gli andava bene, con tutto che lo sapeva fare e come. E allora ecco questo disastro, appunto, di aver scelto una tecnica che poteva anche distruggersi facilmente. Lei è conosciuta in tutto il mondo come una tra le massime esperte di restauri. Ha restaurato Piero della Francesca, Pollaiolo, Mantegna, Caravaggio, Tiziano, Giotto, insomma, ma anche artisti contemporanei. Sì. Di autori. Sono tutti autori appunto su cui lei ha lavorato. Io ho provato a cercare anche delle informazioni d'archivio, ho trovato articoli che erano stati scritti dal New York Times, giornali francesi, da testate spagnole, quindi lei è vista da tutti, sopra ogni cosa però, come la restauratrice del Cenacolo di Leonardo. Ecco, allora io partirei proprio da qui. Com'è stato stare per 20 anni con Leonardo e la sua ultima cena, che poi è anche il tema del libro che lei ha appena fatto uscire per Electa? Ma insomma, io le dirò che l'abitudine di vivere a contatto con l'opera, dunque mi trovo molto più a mio agio nel colloquio avuto col pittore che quando devo parlare di me. Questo è già un inizio della nostra conversazione. Questo è un lavoro che è durato 20 anni, è iniziato alla fine degli anni 70 ed si è concluso sul finire degli anni 90, esatto. Quindi è un arco anche di tempo, di storia proprio del paese. E quando è iniziato, ad esempio, come ha accettato l'incarico, con che spirito? Ma sul momento devo dire che non capivo assolutamente il lavoro, perché il sovrintendente dell'ora, Franco Russo, mi aveva dato la possibilità di osservare da vicino la parete, e questo impatto visivo fu per me completamente negativo, perché non riuscivo a capire la materia, era un ammasso di grumi e poi c'erano delle piccole zone dove erano cadute alla superficie pittorica. Non ci fu l'emozione che mi sarei aspettata, ci fu invece una grande preoccupazione anche da parte del sovrintendente. Perché il Cenacolo era praticamente distrutto. Sì, distrutto, era stato ridipinto sopra la sua materia, c'era uno spessore molto, molto forte di pinture, dunque la pittura, la vera pennellata di Leonardo, la sua materia non erano visibili. E allora perché ha accettato? Insomma, quando ha visto questa cosa, questo scempio, ha detto sì, io lo prendo lo stesso. Abbiamo cominciato a fare dei campioni, sono state fatte dei campioni sulla figura di Simone, che è l'ultima di destra, sì. Per cui dopo abbiamo visto che sotto piano piano emergeva il colore leonardesco, dunque questo era un buon avvio. Mi è stato detto proviamo a pulire tutto l'abito di Simone, e così è emersa la pittura sua con queste velature in lacca, e questa è stata, diciamo, il primo via al lavoro. Quindi lentamente ha preso forma anche un'emozione rispetto all'avvicinarsi a Naturale. un'opera di Leonardo. Sì, naturalmente, certo, c'è stato lo scoperto originale che era proprio sommerso, infragilito da interventi, direi più dannosi che riparatori. Dunque è stata una conquista lenta e sofferta, centimetro per centimetro. Lei ha detto. Un'esperienza catturante, direi. E infatti è bellissima anche un'espressione che ha usato parlando proprio di questo lavoro e di Leonardo come di un figlio che che le stava dando qualche preoccupazione. Beh, è normale, insomma, quando noi lavoriamo come restauratori ci avviciniamo moltissimo all'uomo, all'opera, per cui rimane dentro di noi. Naturalmente fa parte, diciamo, del bagaglio nostro, diventano un po' di famiglia, ecco. Quando ha terminato il lavoro nel libro è raccontato benissimo quel momento, il momento in cui lei consegna alla città l'ultima cena restaurata. Quando ha terminato, che cosa è successo dentro di lei? Perché ha dovuto anche abbandonarlo, insomma. Sì, naturalmente si abbandona. Devo dire che c'è un grosso vantaggio perché ogni anno, ogni 2 anni, anzi comincerà tra poco, si mette un piccolo punteggio, ci si avvicina alla superficie per vedere se ci sono dei problemi, soprattutto per rimuovere la polvere che o bene male, anche se c'è un filtraggio molto forte dell'ambiente, si deposita un particellato molto fine, si deposita un po', dunque si rimuove la polvere, dunque lei si riavvicina di nuovo al maestro. Quindi non c'è mai stato un vero profondo distacco, insomma ogni 2 anni si ritorna ad avere appunto, questo dialogo. È normale, c'è questo dialogo vicino, naturale. Senta, un'altra cosa che mi è molto piaciuta, che poi ha anticipato anche all'inizio di questa intervista, è la relazione con la stampa. Lei è sempre stata molto schiva, giustamente ha scelto anche un lavoro che non prevedeva forse di doversi mettere in relazione. No, ma è una questione anche proprio di natura, diciamo, ecco. Non amo molto, non ho mai amato anche per tutto il periodo che c'è stato col lavoro lì vicino, la stampa si è scatenata, quella italiana e quella straniera, però io ho sempre fatto un passo indietro, diciamo così. Quindi era anche faticoso per lei avere la stampa sul collo per 20 anni, poi non per un giorno. È una questione proprio di modo di fare mio, insomma, un po' coschivo, un po' lombardo, ecco, diciamo. La prima volta. Eccoci qua, ben ritrovati alla prima volta. Prima di andare avanti con questa bellissima intervista con Pinin Brambilla, che è, come molti di voi sapranno, una grandissima restauratrice, per farvi capire è la restauratrice che ha lavorato per 20 anni sul Cenacolo. Prima di andare avanti con questa intervista volevo darvi un po' le nostre coordinate per mettervi in contatto con noi. La prima volta è radio24.it, l'indirizzo email per scriverci, radio24-la prima volta, invece la pagina Facebook per ricevere gli aggiornamenti e le puntate che vorrete magari nel caso riascoltare. Prima di interromperci, lei ha parlato della sua anima lombarda un po' schiva. In effetti era una domanda, diciamo, che volevo farle, perché Pinin è il diminutivo di Giuseppina, Brambilla è un nome tipicamente milanese, proprio il cognome milanese per eccellenza. Ecco, le volevo chiedere proprio questo, dalla sua esperienza, dal suo punto di vista, come è cambiata secondo lei la città? Beh, è cambiato un po' ovunque, insomma, non soltanto Milano. Direi che Milano è cambiato molto per tutto, per il contatto della gente, per il modo di vivere, per le cose che noi da vecchi milanesi amavamo e che adesso non ci sono più. Cosa sono le cose che non ci sono più di Milano? Guarda, io viaggiavo in tram l'altro ieri e una signora, ci siamo messi a parlare con una signora che era un'ucraina ed è da 10 anni a Milano e mi ha detto: signora, com'è cambiata Milano in questi 10 anni? Ha fatto un certo effetto che una persona straniera mi avesse detto così, ed è la verità, insomma. Ma cos'è che le manca, insomma, del passato milanese, anche della sua infanzia milanese, ad esempio? Se c'è qualcosa qui. Ci sono il modo di vivere, il modo di pensare, il modo di agire, insomma, ci sono dei modi di essere che non ci sono più, insomma. Com'era la sua famiglia d'origine? Com'è stata la sua infanzia? Insomma, come... La mia famiglia, eravamo il padre e la madre, una sorella, dunque erano delle regole naturali che si mangiava a quell'ora, bisognava stare a quell'ora, non bisognava parlare, erano molto severi piuttosto i miei. E senta, come si è orientata lei poi allo studio della storia dell'arte? Come è arrivata a fare le sue scelte poi professionali? Ma devo dire che è stato abbastanza così casuale il fatto di arrivare al Cenacolo, perché finito gli studi di storia dell'arte di Brera, insomma, io naturalmente, come allora, si cercava lavori ovunque, come adesso si cercano i lavori nei giovani, no? Si faceva un po' di tutto. Quando mi sono iscritta all'università, l'architetto Portaluno mi ha presentato al restauratore di chi stava in quel momento lavorando, sì, a Brera, che era Mauro Pelliccioli, e così ho iniziato a entrare nell'ambiente dell'arte, però ero molto lontano, io non sapevo nulla, non è come adesso che si fa una scuola, insomma, si passa 3-4 anni, 5 anche per fare il titolo di laurea, allora no, era il mestiere. Secondo lei è meglio? Ha suscitato la mia curiosità, il mio desiderio di comprensione, per cui ecco come è iniziato il mio lavoro. Ecco, questo è un lavoro che richiede anche un grosso sforzo fisico, no? Perché alla fine della giornata fa male anche le braccia. Soprattutto quando ci sono i ponteggi, quando ci sono i restauri degli affreschi sui ponteggi, diventa molto pesante. Ed è un lavoro, quindi è un lavoro molto bello, perché da una parte c'è lo sforzo fisico, dall'altra c'è anche l'empatia, l'entrare in contatto con l'opera stessa, sentirla. E questa è la cosa più bella del lavoro, no? Ecco, sì, no, infatti volevo chiederle appunto, perché spesso non si parla di questo, sembra quasi che sia un lavoro tecnico, no? Altamente specializzato, ma tecnico, invece c'è proprio... Perché adesso sì, c'è la professione, sta cambiando, c'è più un avvicinamento con i criteri di scientificità, e si allontana molto di più dell'immagine del pittore restauratore, che aveva quasi dei doti quasi alchimistiche. Poi il restauratore una volta era anche pittore, adesso uno si vuole fare la pittura, lo fa per sé, ma non deve avvicinarsi, deve capirla soprattutto. Ma l'avvicinamento fisico dell'ambiente è pesante, insomma, perché bisogna salire sui ponteggi, stare delle ore, magari con le braccia alzate, insomma, sì. Una fatica. Senta, nel suo libro La mia vita con Leonardo, edito da Electa, quello che emerge anche, io ho iniziato a leggerlo, è la figura, il ritratto anzi di un paese con mille contraddizioni, cioè da una parte c'è il bisogno anche sbandierato fin troppo davanti alle telecamere di riportare in vita l'arte, dall'altra però i soldi che non ci sono mai, e proprio per l'arte. Perché? Siamo stati fortunati perché abbiamo avuto l'aiuto dell'Olivetti, questo è stato molto importante perché ci ha dato la possibilità di fare molte cose, di fare degli studi, l'Olivetti ha fatto delle mostre, aveva già fatto molti restauri a Firenze, un po' dappertutto, di conseguenza è stato abbastanza facile per noi avere un sostegno di questo genere. Ma certamente lo Stato non può arrivare ovunque, i soldi in questo momento soprattutto non ce ne sono, dunque ben venga la sponsorizzazione di persone. Però Olivetti è sempre stato molto cauto, molto riservato, non ha mai sbandierato nulla di quello che faceva. Un'altra cosa che ho letto sempre riguardo a lei, e questo è un ritaglio di un articolo del 99, no? Lei in quell'articolo racconta che sua nipotina, mentre facevate un puzzle assieme, le disse non così nonna, sei un'imbranata. Ecco, a me ha fatto molta impressione perché... È vero, perché c'è generazioni completamente diverse, me lo dice tuttora. Quando io non riesco a fare le cose per telefono mi dice ma nonna, ma insomma non mi interessano assolutamente, per me, io ho un'antipatia per il computer, è antipatia per me. È proprio lei come persona che emerge da questa frase che racconta la giornalista del 99, cioè lei non ha rinunciato a quella parte di sé? No, assolutamente, uno è quello che è, insomma, non si costruisce, perlomeno nei miei riguardi non sono mai stata così. In Repubblica c'è una polemica attorno agli affreschi di Giotto alla Basilica di Assisi, sono stati criticati, alcuni hanno parlato di effetto pizzeria, adesso non so se lei ha seguito la cosa, volevo saperle appunto, sapere cosa ne pensava. No, io ho seguito quando si stava facendo i lavori, il lavoro era di grosso impegno e molto difficile cercare di recuperare frammento per frammento quello che si poteva. E devo dire, è stato fatto dall'Istituto Generale del Restauro con la massima organizzazione, diciamo, chiamiamola così, di restauro, di conseguenza non assolutamente... Non oso criticare assolutamente, anche perché non ne vedo la ragione. C'è sempre qualcuno che vuol fare un po' di così, un po' di polemica. Di polemica, esatto. Io... Ma perché secondo lei? Ma non lo so, perché uno vuol scrivere qualcosa in più, ma io personalmente adesso da molti anni che io non vado più ad Assisi. E non credo che ci siano dei problemi. Se fossero dei problemi, l'istituto si preoccuperebbe di metterli a posto, insomma, di cercare di risolverli. Io le volevo chiedere un'ultima cosa, cioè cosa consiglierebbe a un giovane che oggi ha voglia di iniziare a fare questo lavoro? Cioè, se è bene appunto iniziarlo, con che spirito farlo? Ma guardi, ci sono diverse scuole che sono fatte. Per esempio, io ho seguito per 7 anni Venaria, dove è nata una scuola di restauro, sono 5 anni di restauro, di studi per il restauro, c'è la sezione dei quadri piuttosto che gli affreschi, mentre una volta si faceva un po' tutto. Però come in tutti i lavori, come in tutte le mestieri che uno vuole intraprendere, uno deve così capire, avere una certa sensibilità, perché il lavoro va sempre fatto non soltanto con le mani, ma con la mente e col cuore. Se uno non ha queste sensibilità, non si sente di dover affrontare questo lavoro che è anche lungo e duro, paziente, rinunci, faccia qualcosa d'altro. Per tutti noi almeno, per il bene di tutti noi. Poco, sì, grazie. E dunque la prima volta termina qui. Io vi ringrazio per essere stati con noi, anche per le mail che ci scrivete all'indirizzo la prima volta @radio24.it. Continuate a seguirci su Facebook alla pagina Radio24- la prima volta. L'appuntamento è sempre di domenica, sempre alle 13:30. Ciao a tutti, da Cristina Carpinelli.